ci sono delle tappe molto importanti, quelle del Col du Galibier, ci sono le tappe di Tre Cime di Lavareto, quindi secondo me è un giro disegnato molto bene. Sì, lo stiamo facendo, primo, secondo quasi sempre, e questa è la linea per provare a vincere il mondiale. Il gruppo è fantastico, mi stanno mettendo a loro agio e io sono veramente contento adesso. Tutti convocati di Carlo Genta. I didn't get all the questions asked, but I think the most important questions and the answers that people around the world have been waiting to hear were answered, and certainly answered. I can only say I was satisfied by the answer. I would say he did not come clean in the manner that I expected. The truth, this is how you feel. Say it's me, if this was ever real. Quel vainqueur du Tour de France 2005, Lance Armstrong. Lance accompagné de son petit garçon Luc. Sport et de la vie associative. Bernard Thévenet, également présent, vainqueur du Tour de France 75, et également les coupes de Sèvres et maillots à l'Infolion. On va donc applaudir très fort Lance Armstrong. Voilà, 7e victoire consécutive. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanide, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. The Truth, abbiamo sentito le parole di Oprah Winfrey in attesa di vedere questa intervista, ma nel mondo della comunicazione si sa già tutto prima o quasi. Aspettiamo i dettagli, aspettiamo di guardare negli occhi il grande truffatore. Per anni gli abbiamo creduto, ci siamo sforzati di credere a un UFO americano che volava sul ciclismo, troppo forte, imprendibile, cattivo, agonisticamente. Contavamo il numero delle sue pedalate sull'Alpe d'Huez, rimanendo impressionati. Lo ricordiamo sbeffeggiare Pantani con quella vittoria regalata in modo ostentato sul Mont Ventoux. Ora ha detto che era tutto finto. Lo sappiamo perché appunto questa intervista è già circolata per il mondo, anche se ancora dobbiamo vederla e lo faremo domani notte. Io saluto e ringrazio due ospiti. Il primo è Pier Bergonzi, oggi redattore centrale della Gazzetta dello Sport, per anni la penna principale del ciclismo della Gazzetta dello Sport e soprattutto l'unico giornalista italiano che aveva diritto di accesso alle parole di Armstrong. Ciao Pier. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Saluto anche Pier Augusto Staggi, direttore Tutto Bici e voce del nostro ciclismo. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, ciao Pier. Allora, Pier Bergonzi, tu hai scritto anche un libro nel 2002 su Armstrong. Lance Armstrong, l'uomo dei miracoli, la favola del cowboy in giallo, dal cancro ai tre Tour de France. Poi sono diventati sette. C'è stato un momento, Pier, in cui hai smesso di credergli? Insomma, fa anche un po' ridere quel titolo, l'uomo dei miracoli. Perché sappiamo che quei miracoli erano esattamente miracoli dovuti anche a qualcos'altro oltre alle sue forze. Beh, insomma, ho smesso di crederci quando è uscita l'inchiesta dell'USADA, un lavoro eccezionale fatto da Tiger, ma relativamente, nel senso che bisogna anche considerare il contesto storico. Cioè, Armstrong in quegli anni, questo va detto, non per giustificare quello che ha fatto, che non ha nessuna giustificabilità, ma per capire, ha fatto quello che in quegli anni temo facessero un po' tutti i corridori di primo livello, quindi non so se è tutto da buttare quello che è accaduto in quegli anni, certamente è stato tutto un grande imbroglio, questo è il problema. Pier Augusto Staggi, qual è la tua posizione? Sì, Pier dice una cosa giusta, probabilmente Armstrong non ha fatto né più né meno quello che hanno fatto grandi atleti di prima fascia, molti tra l'altro atleti di prima fascia, atleti molto forti, li aveva reclutati e hanno anche corso per lui. Credo che la cosa grave è che possa venire fuori, domani potrebbe essere confermata da quello che si sa, e che Armstrong non solo abbia fatto ricorso al doping, ma avesse sostanzialmente le chiavi di accesso per poter sviare controlli, per poter difendersi dalle maglie dell'antidoping di questa rete che non era così fitta per lui, perché è vero che in quel periodo quasi tutti i corridori baravano, però abbiamo visto che tutti, chi più che meno, sono finiti molto molto male. Lui era intoccabile, cioè le chiavi del ciclismo gli erano state consegnate. Ed è questo secondo me, il punto. Ed è questo secondo me il punto, perché Pier Bergonzi, come scrivi tu oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma come scrive ad esempio anche Maurizio Crosetti su Repubblica, il sistema Armstrong non può essere esistito senza la complicità, non solo omertà, della Federazione Ciclistica Internazionale, il suo vecchio capo Einar Bruggen, padrone del ciclismo degli anni d'oro, falso di Lance, poi addirittura vicepresidente del CIO. E non potevano sapere il suo successore Pat McQuaid, non potevano non sapere i medici del CIO e molto devono spiegare i responsabili del laboratorio di Losanna. Non potevano non sapere i medici statunitensi, spagnoli, italiani di Armstrong, non potevano non sapere i dirigenti delle squadre del Texano, soprattutto la US Postal, che ha ricevuto milioni di dollari pubblici. Non potevano non sapere o almeno sospettare gli organizzatori del tour. Ma guarda, adesso questo non lo so con certezza e spero che l'intervista di Oprah Winfrey ci dica qualcosa in più. Non so esattamente se Lance ha fatto nomi, cognomi e situazioni. Io dico un'altra cosa, dico che se c'è stata complicità è una cosa gravissima, un danno enorme che questi dirigenti hanno fatto allo sport. Ma se anche non c'è stata complicità, c'è stata incapacità. Armstrong, con la sua voce, questo fa impressione, ci dirà che si è dopato per vincere i 7 tour e probabilmente si è dopato anche prima, probabilmente anche per vincere il mondiale del 93. Ha fatto oltre 500 controlli e non è mai risultato positivo. Questo significa che il sistema non funzionava. Il sistema non ha consentito al ciclismo di essere credibile. Allora, per me è abbastanza questa incapacità per farmi pensare che se vogliamo sperare di avere un ciclismo credibile, un futuro migliore, un futuro che parta su basi solide, non possiamo ripartire dalle stesse persone che hanno gestito quel ciclismo. Senti, ti chiedo ancora una cosa, Pier, prima di salutarti, mentre mi terrò ancora qualche minuto per Augusto Stagi, come può cambiare tutto questo il futuro del ciclismo? Perché adesso si parla addirittura di una possibile esclusione dalle Olimpiadi di questa disciplina come conseguenza. Ma questo spero che sia soltanto una provocazione di Dick Pound, l'ex presidente della WADA. La verità è un'altra, secondo me. Questa può essere una grande opportunità per il ciclismo. Io l'ho scritto, l'ho detto più volte, dopo il caso Festina, dopo il caso Pantani, dopo il caso Contador, dopo il caso Landis, ogni volta diciamo il ciclismo, questo ciclismo è meglio, ripartiamo su basi più pulite, credete, abbiate fiducia nel ciclismo. Io dico che con Armstrong e con la sua testimonianza il ciclismo ha toccato il fondo, cioè il punto più basso di sempre per tutto quello che riguarda il doping. Ha quindi una grande opportunità, che è quella di ripartire da zero. Per ripartire deve poter guardare a quello che è successo in quegli anni senza alcuna paura. Cioè, io spero che venga fuori tutto e che dopo Armstrong ce ne siano altri, ci dicono esattamente quello che è accaduto e che su quelle basi si riparta con una consapevolezza diversa, che vuol dire una cultura diversa da parte dei giovani che si avvicinano al ciclismo, con dirigenti più credibili e con regole certe. Allora, mi sembra di capire che il passaporto biologico adesso dia qualche arma in più ai controllori, cioè all'antidoping, che tutto quello che è stato il doping ematico di quegli anni, che non risultava ai controlli, questo è il grande problema, la grande ipocrisia, cioè l'USIA ha consentito che si pedalasse fino a 50 di ematocrito, sapendo che fino a 50 i corridori potevano usare l'EPO. Questa in sostanza è la grande ipocrisia di quegli anni. Allora, se si riparte su queste basi, il ciclismo ha fior di futuro e deve stare a testa alta alle Olimpiadi e in qualsiasi altra gara dell'anno. Tour, Giro d'Italia, le grandi classiche hanno dalla parte oltre 100 anni di storia. Io non ho dubbi su questo e ho fiducia anche nelle nuove generazioni, ma devono poter contare su un sistema più giusto. Grazie Pier Bergonzi. Grazie a voi, a presto. Grazie, ciao, un abbraccio, ciao, Pier. Ciao. tutti convocati. I want the truth from you. Give me the truth, even if it hurts me. Voglio la verità da te. L'avremo, la ascolteremo. Secondo Oprah Winfrey, una verità parziale, però adesso si tratta di togliere i veli a questa dichiarazione. La stessa giornalista americana, che è una, insomma, che ne ha sentite, ne ha viste di tutti i colori, è una delle più popolari anchor del mondo, ha detto che questa è stata la più importante, forse toccante, della sua carriera. C'è chi scrive: togliete i soldi ipocriti, andate a lavorare, lo sport è un hobby. Assolutamente assurdo questo messaggio. Oppure: buongiorno, una cosa ricordo di Armstrong, la rincorsa quasi immotivata a Simeoni, colpevole di aver denunciato certi metodi usati da Ferrari, la cattiveria nei suoi occhi verso Simeoni, lo scrive Fabio da Monza. Pieragusto Stagi, sei lì? Volevo un tuo commento sulle parole che abbiamo sentito prima anche da Pier Bergonzi. Quale futuro del ciclismo e come questo muro di Berlino che cade davanti ad un microfono può aiutare il ciclismo? E in questo momento è ai minimi storici, ovviamente, della sua popolarità nei confronti del grande pubblico, che rischia di essere escluso dalle Olimpiadi, che rischia di diventare davvero lo sport cui non si può credere mai più, con quelle 7 croci nere sull'albo d'oro del Tour. Guarda, io penso che il ciclismo, come ha detto Piera, ha una grande opportunità, ma deve veramente fare sul serio e deve assolutamente ripartire, se vuole ripartire, se vuole dare un futuro a se stesso e garantire un futuro roseo a questo sport, deve ripartire con una nuova dirigenza. Mi sembra evidente che da questa vicenda ne escano malissimo, Lussi in primis. Non è esente da colpe il grande carrozzone, il grande apparato Tour de France, che si sciacqua le coscienze cancellando in maniera ignobile. Devo dire ignobile perché è ignobile nel momento in cui tu cancelli 7 tour di Arne Riis e non hai mai cancellato il nome di Lance Armstrong, e mai cancellato il nome di Arne Riis, che è un reo confesso. E se per questo potrei andare avanti, sì. Iosa non ha mai cancellato il nome di Richard Virenc, un loro campione trovato positivo, squalificato, e gli hanno lasciato tranquillamente le sue 6 maglie a pois. Anzi, oggi è un opinionista di una nota televisione internazionale in lingua francese. Complice anche, devo dire, il CIO, che in tutta questa vicenda, fino a ieri, quando abbiamo ricevuto l'agenzia di stampa in tarda serata da un suo delegato, da un suo consigliere, da un suo membro, Dick Pound, ex direttore della WADA, che ha detto: potremmo togliere il ciclismo dai giochi olimpici. La cosa è gravissima, perché in questo mare moto, in questo tsunami che sta vivendo il ciclismo col fenomeno Armstrong, il CIO non aveva ancora espresso alcun parere su una sua affiliata, che è l'UCI. Addirittura noi stiamo vivendo la situazione grottesca, sottolineata solo da WADA e solo da Lusada, che hanno detto cose giustissime, che sono i grandi accusatori del governo mondiale del ciclismo. Addirittura l'UCI ha aperto una commissione indipendente, però nominata da se stessa, per giudicare se stessa. Cioè, noi siamo al ridicolo, capisci? E non hanno provato il minimo imbarazzo. Cioè, loro hanno detto: voi indagate, se ha raccolto tutti i materiali, e diteci se abbiamo responsabilità noi. Ma sono loro stessi che hanno nominato questi. Ehi, voglio vedere se qualcuna di queste teste finisce per cadere nel cesto, ma ho la sensazione di no. Pier, parliamo insieme agli ascoltatori. Francesco, tutti convocati naturalmente. Francesco, provincia di Viterbo, Luca da Pordenone. Francesco, buongiorno. No, buongiorno a tutti, anche se oggi è una giornata triste per gli sportivi, i ciclisti in particolare. Allora, alcune cose. Mi sente? Sì. Allora, Allora, Armstrong purtroppo ha inseguito quel mostro gigantesco che è il Tour de France. Sta diventando, è diventato troppo grosso il Tour de France per il ciclismo. E questo penso sia una conseguenza, perché non credo sia solo solamente, anzi sono quello che tutti, che non è solamente Armstrong che ha fatto uso di certe cose. Lui l'ha fatto in maniera più brutta forse. Seconda cosa, la domanda se il ciclismo è al futuro. Io ho un bambino, un ragazzo di 14 anni che va in bicicletta, in mountain bike, come lui e tanti altri suoi compagni di squadra, oggi è in provincia di Viterbo, nevica e si stanno allenando. Quindi il futuro è nel gusto di faticare con una bicicletta, e questo è il futuro del ciclismo. Altre cose non esistono, il ciclismo è solamente chi l'ha fatto può sapere che cos'è il ciclismo. Non è uno sport, è una filosofia, non so neanche che trovare come parole, però ciclismo è ciclismo, appunto. Non è un Armstrong che può finire il ciclismo. No, non è un Armstrong, anche se Armstrong era il semidio di questo sport, era il Michael Jordan di questo sport, ma non c'è stato purtroppo solo Armstrong. Sentiamo anche Luca da Pordenone e poi rispondiamo insieme. Sì, la domanda che mi pongo, che faccio, è se diciamo il ciclismo nella lotta al doping è di fatto un riferimento, e paradossalmente poi questa lotta si riversa sulla pessima reputazione del ciclismo, si sta creando, si è creato. Mi viene da chiedere cosa ci sia negli altri sport dove non si persegue con coscienza e conscienza ogni tipo di attività illecita del doping. Mi basti pensare al passaporto biologico, cioè certi sport il passaporto biologico non si sa nemmeno cosa sia. Quindi se dalla WADA arriva la provocatoria affermazione, il ciclismo si può eliminare dagli sport olimpici, allora tutti gli altri sport cosa facciamo? No, la domanda, la sua considerazione è assolutamente legittima, perché anche Piero Augusto Stagio può confermare che di passaporti biologici, di controlli di questo tipo si parla soltanto nel ciclismo, non in altri sport. No, assolutamente uno strumento che è nato per il ciclismo, nel mondo del ciclismo, e al momento viene utilizzato anche con molte lacune, soprattutto, se mi permette, mi riallaccio anche al discorso di prima, alla necessità di cambiare quindi la dirigenza dell'UCI. Un passo fondamentale non è solo cambiare i vertici, quindi i dirigenti, il manager del movimento ciclismo mondiale, ma anche arrivare poi a non più gestire come ha gestito e sta gestendo ad oggi l'antidoping direttamente. Perché in questi anni è chiaro, e non sono d'accordo con quanto ha detto prima Pier Bergonzi, che diceva non è mai stato trovato nulla da Armstrong, più di 500 controlli. Ashenden, che era uno dei 9 membri per il passaporto biologico, 3 anni fa aveva detto chiaramente che il passaporto biologico di Lance Armstrong era anomalo, ma non gli hanno tappato la bocca e lui si è dovuto dimettere. Il problema è che i problemi di Armstrong, pomate sotto sella e quant'altro, soprattutto i giornali in lingua inglese, bisogna dirlo, hanno è da anni che puntavano l'indice contro Lance Armstrong. I mezzi di comunicazione, in modo particolare il governo mondiale della bicicletta, ha sempre fatto un uso strumentale e politico dell'antidoping. Chi era amico era tutelato, chi alzava la cresta era in ritardo sui pagamenti, cioè, perché c'era molta gente cui conveniva avere un mostro al Tour de France, perché comunque Armstrong è innegabile, è la sua storia soprattutto, no? Ricordiamoci che Armstrong vince il mondiale ed è il corridore che diventa campione mondiale il più giovane in assoluto della storia del ciclismo. Poi gli succede quello che gli succede, viene diagnosticato un cancro al testicolo e al cervello, viene operato, torna a correre e immediatamente vince il Tour de France. La sua storia è una storia che si vende da sé. Certo. In America diventa un idolo, per lo sport è qualcosa di inimmaginabile, cominciano a lievitare i cronisti, giornalisti. Al Tour de France, Carlo, ci sono negli ultimi anni 1500 giornalisti, ma grazie ad Armstrong sono arrivati giornalisti appunto di lingua inglese. Oggi la lingua ufficiale è l'inglese, non più il francese come 10 anni fa, e questo è grazie soprattutto a Lance Armstrong, che ha portato interesse negli Stati Uniti d'America e ha portato televisione come appunto la CNN o la BBC, ha portato il Financial Times, ha portato il New York Times, ha portato grandissimi cronisti a seguire tutto il Tour de France, e grazie a lui hanno cominciato a parlare sempre di più anche in Australia. Sì, sì, l'Australia ci ha messo il carico da 90, ce l'ha messo Cade Evans, certo. E poi ultimo ma non ultimo, Freddy Wiggins per l'Inghilterra, e si è chiuso il cerchio. Gli in Francia hanno fatto i punti d'oro per Lance Armstrong. Ricordiamoci che Armstrong ha lasciato il suo primo addio dopo il suo settimo sigillo, dopo il suo settimo sigillo non era mai avvenuto nel protocollo della cerimonia sui Campi Elisi in Francia. Hanno consegnato il microfono e lui ha fatto un discorso alla nazione, a reti unificate, ha ringraziato il mondo, anzi, e noi italiani eravamo talmente gratificati, perché c'era sul secondo gradino Ivan Basso, sì. E Lance Armstrong disse: lui sarà il mio erede, sì. L'ha detto, e i francesi gli hanno permesso questo ed altro. Lui era diventato, è questo che dico, è questo che dico. Era diventato il proprietario, del ciclismo e del Tour de France, e adesso scopriamo in quale modo. Piero Augusto, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi. Avremo altre occasioni per parlarne, anzi nel magazine di sabato, già ve lo dico, torneremo con la voce di Armstrong, che dobbiamo ancora sentire su questo argomento. Tutti convocati. Torniamo insieme, sempre con Franco Piantanini, autore di questo programma, e Fabio Cantadori in regia. Buongiorno. La ricetta per il ciclismo è molto semplice: vietato tutto, unico doping ammesso l'allenamento. Chi sgarra squalifica vita, scrive Stefano. Io mi sono convinto che le pene draconiane possano essere una delle soluzioni possibili, cioè non più un anno di squalifica, un anno e mezzo, ma chi viene beccato anche una sola volta non sale più in bicicletta come professionista, al massimo va in giro la domenica sulle colline con la graziella, eh? Riccardo, provincia di Varese. Buongiorno. Volevo solo entrare nel discorso Armstrong Tour de France, visto che i suoi ospiti per Augusto Staggi hanno accusato un po' tutti, CIO, UCI e tutto. Noto che faccio notare che dovrebbe esserci anche una certa complicità anche da parte dei giornalisti, che hanno tollerato, hanno esaltato gesta di medie astronomiche nelle salite, Tourmalet, Alpe d'Huez e tutte queste. Sì, Riccardo, l'ho detto prima, no? Contavamo la frequenza delle sue pedalate sull'Alpe d'Huez e rimanevamo impressionati. Però se questo fa 500 controlli e non risulta positivo nemmeno una volta, che cosa ci possiamo fare? Cosa possiamo fare? Però, siccome la classe giornalistica può perché se scrive, logicamente, la mosca bianca che scrive che Armstrong è dopato, no. No, ma guardi che è stato, ma guardi può che se dare voti in politica può anche sì, vabbè, adesso questi sono altri discorsi, però quante volte sono stati posti dei dubbi sulle prestazioni di Armstrong, non solo dalla stampa italiana, ne parlavamo prima, ma dalla stampa britannica, dalla stessa stampa francese, quante volte sono state messe in dubbio le prestazioni di Armstrong? Perché non è vero. Sono state esaltate certe frequenze, certe medie, non dico di Armstrong, di tutti, di Pantani. Beh, ma noi come lei guardavamo uno straordinario spettacolo sportivo. Questo ha fatto 500 controlli antidoping, sempre pulito. Cosa dobbiamo dire? Sì. Eh, No, mi dica lei, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Guardiamo il tour, vediamo questo mostro che lo vince 7 volte. Tour che diventa la corsa più uno degli eventi principali sportivi negli Stati Uniti grazie ad Armstrong, che aumenta a dismisura la sua popolarità, aumenta a dismisura il numero dei soldi, il numero degli inviati. Io ho la sensazione che Armstrong così convenisse a tutti. Nel momento in cui non serviva più, allora è stato giustamente e viene giustamente disintegrato, ma credo che non ci sia solo Armstrong, così come io non credo a tutte quelle storie di doping in cui c'è un solo colpevole e tutti gli altri non sapevano nulla. Queste mi sembrano tutte delle prese in giro legalizzate, perché io la vivo in questa maniera. Non posso credere che uno facesse tutto da solo. Mi viene in mente Schwarzer, ma è una tantum, no? Non ci posso credere e non ci crederò mai che nessuno sapesse. Il problema è che vengano fuori nomi e cognomi e prove di quelli che sapevano e che lo hanno protetto perché conveniva. Mi riferisco ad Armstrong. Adesso vorrei cambiare un attimo argomento, ma siete sempre convocati, eh? 800 24 00 24, per parlare di quello che vi pare. Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık. Aldığımız hasarları ziyansız saydık. Credo che anche Andrea Sorrentino, mio amico inviato di Repubblica, ce l'abbia ormai sull'iPod questa canzone numero uno della Hit Parade turca. Confesso di non avere l'iPod, ecco, devo dire questa cosa brutta. Ce l'avrai sul telefonino, avrai comprato il 45 giri, no. Che ne so. No, capisco che tu mi vuoi portare al discorso Snyder Galatasaray. Certo, ti voglio portare. Cioè, poi se vuoi parliamo anche di un Inter che va a sbuffi, a strappi, e che mi sembra un po' un motore ingolfato, e che ieri obiettivo centrato al 120esimo, semifinale, sì, di Coppa Italia, obiettivo importante credo per l'Inter di questa stagione, ma mi sembra che l'argomento sia questa guerra sempre più dichiarata, no, tra l'Inter e Snyder. Sì, è ormai chiaro a tutti che l'Inter e Snyder si separeranno, ecco, ed è su questa necessità che si gioca la partita delle prossime 2 settimane, perché il vero obiettivo di Snyder non è tanto andare in Premier League come alcuni pensano, ma essere ingaggiato dal Milan. È questa la storia che si sta svolgendo sotto traccia in queste settimane. Il Milan aspetta che Snyder si liberi dall'Inter, magari nelle ultime ore del mercato, e magari costringendo e obbligando l'Inter a firmare una risoluzione consensuale del contratto, per poi tuffarsi sul giocatore e ingaggiarlo tra la sorpresa generale. Nel frattempo Snyder, che ha molto da dire e da recriminare con l'Inter, fa soffrire l'Inter e non accetta questo trasferimento al Galatasaray, che pure lo metterebbe a posto dal punto di vista economico per i prossimi 4 anni. Sì. Ed è una storia che va avanti da mesi e che secondo me è stata affrontata tardivamente dall'Inter, anche se poi quando l'hanno affrontata l'hanno fatto nel modo giusto, secondo me. Però ci si poteva pensare un annetto prima, perché Snyder era già quello che era da parecchio. Sì. Andrea, ieri sera intanto all'aeroporto di Istanbul c'erano, sì, i tifosi del Galatasaray che lo aspettavano. Senti. Ecco. Ma questo vedi? Aspettavano Godot, hai capito? Fa parte delle distorsioni dell'informazione di cui parlavate poco fa riguardo al ciclismo, ma tu difendevi giustamente la nostra categoria. No, spesso in queste trattative frenetiche si propagano notizie assolutamente inventate, come quella che Snyder dovesse piombare a Istanbul da un momento all'altro, mentre invece lui ieri era nella sua bella casa in centro a Milano con la moglie, e da dove ha anche concesso una breve intervista alla Gazzetta, come avete potuto leggere. Quindi niente, Snyder per adesso di andare a Istanbul non ha alcuna voglia e alcuna intenzione. E l'Inter però, quindi, l'Inter continua a spingerlo, e mi sembra che il braccio di ferro ormai sia a questo punto dichiarato. Sì, ma ormai è un odio mortale, davvero, è una bruttissima situazione perché negli ultimi mesi ci si è rincorsi, ci si è fatti dei dispetti anche grossi, ci sono delle cose ancora non dette tra le due parti che potrebbero esplodere da un momento all'altro, il che afferisce ad esempio alla sfera. Senti, ma perché no, ma dimmi una cosa, ma perché è stato brutalmente estromesso dalla rosa? Non aveva più senso comunque condurre pure questa trattativa, portare pure Sneijder al Galatasaray, ma renderlo funzionale all'Inter, farlo giocare, magari far salire la quotazione o comunque gestire la vicenda in una maniera un po' più morbida? Sì, era quello a cui mi riferivo. L'Inter ha sbagliato i tempi, perché secondo me avrebbe dovuto fare quello che ha fatto la scorsa estate, non a stagione in corsa. In pratica l'Inter si è comportata con Sneijder come si è comportata con Giulio Cesare, con Maicon e con Lucio. Sì. Cioè giocatori che sono stati ritenuti non più in grado di fornire prestazioni di un certo livello e ai quali è stato detto o ve ne andate o ve ne andate. E quelli se ne sono andati, ma erano anche personaggi diversi, con carriere diverse, con età diverse. Sneijder è un caso un po' particolare e le cose si sono portate così come si sono portate, ma l'Inter ha sbagliato, ripeto, per 3 mesi. Avesse fatto questa operazione a giugno sarebbe stato tutto diverso. Certamente. Senti, per chiudere, ci credi al campionato aperto oppure no? Oppure è solo un effetto ottico, un caleidoscopio azzurro tra Lazio e Napoli? No. Io ci credo assolutamente. Ci credi o fai finta di crederci? Ci credi o fai finta di crederci? Perché conviene a tutti, no, eh? Che campionato no, sia. No, io ci credo davvero, perché credo che la Juventus non sia l'assoluta dominatrice di questo campionato e con gli ottavi di Champions League farà ancora più fatica ad andare bene in campionato, quindi secondo me è tutto ancora molto aperto, anche se le inseguitrici hanno varie incertezze, varie imperfezioni, però anche la Juve ha delle incertezze, delle imperfezioni e questo rende tutto più interessante. Io ci credo molto meno di te, però tant'è, se rimane aperto conviene a tutti. Secondo me la Juventus sta, l'ho detto già nei giorni scorsi, sta facendo l'Indurain al Giro d'Italia. Poi adesso mi scrivono, sicuro, almeno in 10, che invece la Juventus sta facendo Armstrong, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sai, la fantasia del popolo di tutti i convocati comunque, è sterminata. Comunque Carlo, dimmi. Adesso ovviamente il riferimento non è alla Juve, assolutamente, ma se ci fosse una WADA anche nel calcio internazionale, secondo me ne vedremmo delle belle. Fatto è che qui prodest. Infatti, potremmo chiederlo a Lotito. Serve Lotito. Qui prodest. Esatto. Andrea, grazie. Un abbraccio. A voi, a presto. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Tutti convocati. Vero, tanti messaggi e le telefonate che sono arrivate oggi 800 24 00 24 sul caso Armstrong. Armstrong come Moggi lo sapevano tutti, scrivete anche questo nei vostri SMS. C'è anche chi scrive: evidentemente gli organizzatori del Giro sono stati più seri, visto che Armstrong non veniva mai in Italia, ma non veniva in Italia perché l'unica corsa che gli interessava era il Tour, perché l'unica corsa che interessava al mondo e agli americani era il Tour de France. Quindi ci sono ragioni sportive ed economiche ben precise da questo punto di vista. Giorgio Roma, buongiorno. Buongiorno. Mi gallaccio un attimo a quello che aveva detto un radio ascoltatore un po' di minuti fa sul fatto che il ciclismo è uno sport che è quasi una filosofia, è vero, cioè i ciclisti che conosco io in effetti potrebbero non mangiare, ma la bicicletta la devono avere. Però secondo me il problema forse è anche questo, nel senso il ciclismo richiede un tale sforzo, una tale impegno, una tale fatica che quando si arriva poi a certi livelli, lo abbiamo visto anche con Schwarzschild nella marcia, è difficile accettare di non riuscire ad arrivare al massimo. Quindi? Quindi secondo me nel campo professionale, io mi sono fatto questa idea, mi dispiace anche per gli tanti amici ciclisti che ho, che quando si arriva a certi livelli, non dico che sia obbligatorio, ma mi verrebbe da dire è scontato, però diciamo facile, che il ciclista sì. si affidi a... E allora Giorgio, non è possibile uscire da questa spirale perversa, oppure sì? Allora, purtroppo io non conosco tutte le pratiche che ci sono per evitare, per migliorare i controlli. Sicuramente migliorare i controlli se così possibile. Sofisticati diventa difficile. Non il controllo singolo, cioè la frequenza o il modo con cui vengono effettuati i controlli. Perché se uno come Armstrong vince così tanti anni e non è mai preso, e pare che sia sempre stato dopato. O sono degli incapaci o aveva dei potenti appoggi. I casi sono non credo, oppure aveva dei potentissimi appoggi. No, oppure c'è una terza possibilità che le procedure non sono perfette. Cioè che magari non lo possono nemmeno questo, essere. Questo è un vecchio discorso dell'antidoping che rincorre sempre un doping sempre più sofisticato. Esatto. Questo sì, però io, come ho detto prima, a questo punto sarei per, visto che i controlli sono sofisticatissimi e visto che vengono comunque presi ancora e pizzicati con una certa frequenza, a questo punto sarei per pene draconiane, cioè ti beccano una volta, non sali più in bicicletta, e sarei per estendere ed impiegare una fitta rete di controlli sulle gare delle giovanili, eventualmente su quelle degli amatori, di chi va in bicicletta la domenica, perché noi vediamo la punta dell'iceberg, ma io ho l'impressione che il vero dramma del doping si consumi a quei livelli, e quindi che la cultura del doping si formi a quei livelli. Adesso vorrei farvi sentire qualche altra voce di sport. Come sapete, sono giorni in cui sotto la neve, in un bel contesto, come sempre, si prepara la stagione di Ferrari e Ducati. Ha parlato Stefano Domenicali, il responsabile della squadra sportiva della Ferrari, ha detto: Vettel Alonso preferisco di no, Dream Team non è una cosa che mi appassiona. Sentiamo cos'altro ha detto Domenicali. Sai, è facile parlare, dire il minimo è che noi dobbiamo assolutamente vincere, tanto lo sappiamo. Io credo che mi pongo la domanda in una maniera diversa da solo. Dopo gli ultimi 3 anni, dove per 2 anni siamo arrivati secondi all'ultima gara, credo che sia giusto arrivare primi, non all'ultima gara. Sinceramente io non parlo mai degli altri, onestamente non mi interessano più di tanto. Che ci debbano temere o non ci debbano temere cambia poco su quello che dobbiamo fare noi. Noi sappiamo che per poter vincere un campionato dobbiamo mantenere i punti di forza che abbiamo dimostrato lo scorso anno, che hanno fatto la differenza sotto tanti punti di vista, quindi affidabilità, prestazioni, strategia, pit stop, e migliorare lo sviluppo della macchina. Guardiamo solo al fatto di essere pronti da subito per affrontare una stagione che emotivamente sarà difficile, ancora più difficile di altre, proprio per come è finita quella del 2012. Questo era Domenicali. Paolo da Rimini invece, un ascoltatore, buongiorno. Ah, buongiorno a te. Ciao. Nuovo presidente della FIP, Petrucci. Sì. Mi piacerebbe sapere cosa vorresti chiedergli tu. Io partirei da due cose banalissime. Una migliore ripresa televisiva delle partite, perché purtroppo anche la nostra Serie A sembra di assistere a partite di DNC, e anche una maggiore spinta per la pallacanestro a livello giovanile scolastico, dove ha perso invece molti punti rispetto a qualche stagione fa. Allora Paolo, facciamo così, un giorno lo convochiamo e gli facciamo tutte le domande che vogliamo a Gianni Petrucci, che già ha guidato la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro. Io chiederei anche altre cose del tipo: per quanto tempo si deve andare avanti con campionati, con squadre economicamente vacillanti, che magari poi fanno i miracoli, ma che sono tecnicamente fallite ormai da anni? Questa è la prima domanda forse che gli farai, al di là delle riprese televisive e di tutto il resto. Sentiamo Dovizioso invece, nuovo pilota della Ducati. Purtroppo ho fatto veramente pochi giri con la Ducati, quindi posso dire ben poco. Abbiamo fatto un'ora e mezza a fine giornata a Valencia in condizioni un po' particolari, ma il primo feeling è stato positivo, perché mi aspettavo, diciamo, una moto totalmente ingestibile da come è stata raccontata. Invece il primo approccio non è stato questo. Poi bisognerà vedere quando si comincerà a fare tempi importanti, quando vai a girare come i primi, come sarà, si vedrà. Purtroppo Jerez ho avuto un problema al collo, non sono riuscito a provare, sarebbero potuti stare essere due giorni giusti, anche se era freddo. Ci sono state le condizioni per girare qualche ora, condizioni buone. Peccato, ma adesso abbiamo 6 giorni in Malesia, quindi ci sarà il tempo per capire di più della vita. Dunque, al volo, cambiamo di nuovo sport e andiamo a sentire questa intervista di Dario Ricci al nuovo CT della Scherma, Andrea Cipressa. Elisa è quella che forse più ha sofferto la partenza di Stefano, era il suo commissario tecnico, ma era soprattutto il maestro che l'aveva messo in pedano, l'aveva portato a vincere la medaglia olimpica. Aveva una necessità di trovare un nuovo maestro, un nuovo allenatore. Ha invitato Giovanna. Giovanna è stata una grande campionessa, una grandissima donna, una grandissima atleta. Bisognerà vedere cosa saprà esprimere come maestra. È quasi una scommessa che ha voluto fare Elisa, e credo ha voluto fare anche Giovanna, perché si è presa un bel impegno per allenare Elisa. Io credo che però assieme possano fare bene, possano fare grandi cose. Giovanna è una persona che io inserirò nel mio staff inizialmente per 20, perché soprattutto femminile, perché penso che sia un bel punto di riferimento per le nostre ragazze under 17 e under 20. Punta decisamente a Rio anche Valentina Vezzali, è in attesa del secondo figlio, candidata, sappiamo, anche alle politiche. Agenda un po' piena, sappiamo che Super Valentina. E sentirete un'intervista completa di Dario Ricci a bordo campo del weekend. Noi invece dobbiamo chiudere al volo, ringraziando Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo naturalmente con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao. Ogni sogno desideri. Secondo Cenerentola, i sogni sono desideri.